Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Tutto gira, gira, tutto girano le giri di coccole, coccole. Lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami di coccole, coccole. Buongiorno da Nicoletta, oggi iniziamo da una bella notizia. Le coccole aiutano a crescere bene. Una ricerca condotta sui topolini dell'Università di Torino in collaborazione con quella di Parma e il Max Planck Institut di Heidelberg in Germania ha rilevato che le coccole materne influiscono sul meccanismo che regola l'ansia e la massa corporea dei figli. I risultati, che sono stati pubblicati sulla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze, PNAS, sottolineano che quando la mamma si dimostra particolarmente attenta e affettuosa con i cuccioli, aumenta l'espressione della proteina NPYR1. Si tratta di un recettore che si attiva grazie al legame con una molecola, il neuropeptide Y, e che regola il comportamento emozionale e il metabolismo energetico dell'animale. Al contrario, se i cuccioli vengono allevati da una madre poco prodiga di cure e attenzioni, allora la quantità di recettore espresso nel cervello diminuisce e di conseguenza i topolini crescono ansiosi e più magri della norma. E in linea con noi abbiamo la coordinatrice dello studio, la professoressa Carola Eva, docente dell'Università di Torino, che lavora presso l'Istituto di Neuroscienze della Fondazione Cavalieri Ottolenghi di Orbassano. Professoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Da mamma, la prima cosa che mi verrebbe da dire ascoltando la ricerca è che le coccole non sono vizi, ma risposte adeguate a bisogni che tutti abbiamo, fin da quando siamo piccini. Beh, sicuramente lo studio che abbiamo fatto suggerisce che una attenzione della madre verso la propria prole nel periodo iniziale della vita in qualche modo aiuta appunto i cuccioli, in questo caso perché parliamo di animali, a corazzarsi quando diventano adulti a possibili stimoli di tipo stressogeno, esatto, certo. Metabolici o anche altri tipi di stress. Ma professoressa, questa proteina viene stimolata solo dalle coccole o ci sono altre variabili magari che entrano in gioco nell'attivarla? Ma noi per esempio abbiamo visto che in studi preliminari che sta conducendo la professoressa Palanza dell'Università di Parma, con cui continuiamo a collaborare, e che l'esposizione di questi animali quando sono adulti ad una dieta ipercalorica provoca di nuovo una modificazione di questa proteina, di questo gene, e contestualmente si ha un aumento dell'obesità negli animali. Professoressa, la ricerca è in corso, ma il vostro studio insegna che? Qual è l'informazione che possiamo portarci a casa, come si dice? È che sicuramente l'influenza dell'ambiente sui geni è fondamentale anche nella patogenesi di diversi tipi di malattie, per esempio nel nostro caso di malattie metaboliche. E quindi coccoliamoci. Professoressa, grazie per essere stata con noi, le auguro una buonissima giornata e anche una buona dose di coccole quotidiane da dare e da ricevere. Grazie anche a lei. 800 2400 24 per intervenire, raccontateci come vi coccolate, quale parte di voi ha bisogno di ricevere tenerezza, attenzione, coccole per l'appunto, e qual è la coccola di cui sentite la mancanza, quella che invece vi ha aiutato a crescere. Il nostro numero verde di oggi lo trasformiamo in un numero da coccola, 800 24 00 24, ricordo come sempre il nostro profilo Facebook e il numero per inviare i messaggi 349-238-6666. Tienimi accanto, non dirmi no. Tienimi forte sul cuore, papà. Almeno adesso che la mia età consente a entrambi, in casa e in terrazzo, di farci coccole senza imbarazzo. Tra qualche anno, la legge dei duri ci troverà più grandi e maturi, a fare finta che gli uomini veri sono tutti d'un pezzo e molto seri. Stasera quel tempo è ancora lontano. Tu coccola e gioca con me sul divano. Tratto dal libro Nella pancia del papà di Alberto Pellai. E Alberto Pellai è qui in studio con me. Ciao Alberto, benvenuto, bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Questa poesia voglio dedicarla a Davide da Verona e a Dario da Vicenza, che nell'ascoltare la ricerca e quindi sentendo che si parlava di coccole della mamma, mi hanno subito scritto: ma è coccole solo da parte della madre, quelle del padre? Mentre Davide mi scrive: le coccole paterne non vanno bene. Ecco, parliamo di coccole della mamma e del papà, delle coccole che sono importanti per i bambini ma anche per gli adulti. Purtroppo i grandi poi pensano che le coccole siano una cosa da piccoli. Sì, ci sono credo due pregiudizi intorno alle coccole. Uno, che è proprio una cosa che va riservata ai piccolissimi, e in realtà c'è una zona della vita che è l'ingresso in preadolescenza, quando i figli non vogliono più essere coccolati, ma abbiamo un arco lunghissimo dagli 0 ai 10 anni in cui ai bambini piace molto essere coccolati, e poi in realtà quando si rientra adulti nelle storie d'amore, la coccola della persona che ci vuole bene è in realtà un'attenzione che nutre, è proprio un gesto di nutrimento della relazione. L'altro aspetto è che le coccole siano cose poco maschili, proprio un po' come sollevavano poi i nostri ascoltatori che subito hanno mandato l'SMS. In realtà c'è proprio un linguaggio corporeo nella relazione, non solo della mamma ma anche del papà con il proprio bambino, che si trasforma in coccola. Come potremmo differenziare la coccola da un qualsiasi gesto di cura? Cioè, i bambini attraverso i gesti degli adulti possono essere curati, e quindi gli adulti possono assolvere le funzioni di nutrimento, di igiene, proprio di attenzione e di crescita, ma ci sono gesti che invece, oltre a trasmettere la dimensione della cura, trasmettono la dimensione dell'amore. Quindi un bambino può essere curato attraverso i gesti e un bambino può essere invece amato attraverso i gesti. Ci sono molte ricerche che dimostrano come bambini che sono curati bene ma non amati attraverso le cure primordiali, in realtà vanno incontro proprio a molto più facilmente a malattie, a ritardi della crescita. Il gesto, la coccola invece, che trasmette amore, è proprio quella dimensione che poi chiamiamo coccola, perché è gratuita, è intima ed è sintonizzata e sincronizzata con i bisogni non solo concreti ma anche emotivi e affettivi del bambino che la riceve. 800 24 00 24 se volete parlarne con noi, e potrebbe essere magari utile capire qual è l'immagine che associamo alla parola coccola: una carezza, un sorriso, un profumo, una musica, ma una parola. Fondamentalmente è tutto ciò che è gratuito, quindi non dovuto, e che allo stesso tempo in realtà ci fa sentire amati e ci fa sentire bene all'interno di una relazione. Quindi qualsiasi cosa può da noi essere interpretata come una coccola quando sta all'interno di una relazione che ci fa stare bene e quando è un gesto che nutre la nostra parte più emotiva. Considera che l'aspetto proprio di come io vivo la relazione con chi mi regala una coccola è fondamentale, perché ci sono dei gesti che, fatti da una mamma o da un papà, per esempio su un bambino, sono coccole magnifiche, ma fatte da una persona che non ha una relazione col bambino, diventano certo gesti molto fastidiosi. La domanda che vogliamo fare ai nostri amici da casa è: siete capaci di coccolare gli altri, e come vi comportate con chi vi coccola? Lasciate fare, vi ritraete, siete quasi infastiditi, imbarazzati? 800 24 00 24. In una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano, a volte c'è più sensualità che nel vero e proprio atto d'amore. Tratto da Dentro le parole, di Dacia Marini. E nella vita di coppia contano più i gesti o le parole o entrambe, Alberto? Ma conta la sintesi magnifica che riusciamo a fare di gesti e di parole, e mentre gesti e parole sono contenuti, poi la relazione di coppia è il contenitore, quindi quei contenuti assumono un valore specifico all'interno del contenitore, cioè della qualità della relazione in cui avvengono. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo. Buongiorno dottor Rossi, bentornato. Buongiorno Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, dall'Inghilterra arriva la formula per la coppia perfetta. Attenzioni, tempo da spendere insieme e coccole. Sembrano proprio questi gli elementi per una relazione anche di lungo corso, serena e appagante. Un po' lo sappiamo, dottor Rossi, ma le coccole sono, possiamo intenderle un po' come il termometro della salute e dell'affiatamento di una coppia? Ma assolutamente sì, nel senso che di solito siamo molto più propensi a pensare che la vita sessuale sia un po' il termometro della coppia, ma una vita sessuale non è un parametro indicatore completo, nel senso che le coccole sono fondamentali per avere una soddisfazione nella relazione. E addirittura pensa che le coccole, sentivamo prima parlare del peptide, no? Che è stato scoperto, ma addirittura danno anche stimolano il rilascio dell'ossitocina e diminuiscono il livello di stress delle persone, quindi hanno un effetto molto positivo sull'unione, perché l'ormone ossitocina crea l'unione, no? Che poi è tipico quello della mamma nei confronti del l'accudimento, bambino, certo. E questo viene riproposto, diciamo, all'interno del rapporto di coppia. E quindi per una coppia un po' affaticata, mi lasci usare questo termine, le coccole possono diventare una sorta di terapia? Si può reimparare a farsi le coccole? Assolutamente sì, anche in questo senso, perché possono essere una terapia, e pensi addirittura che in America, che sono in certe cose un pochino più avanti di noi, hanno addirittura inventato la cuddle therapy e i cuddle party, cioè cuddle inteso come coccole, carezze, dove addirittura le persone si incontrano o in terapia di coppia o con persone che non si conoscono fra di loro, e l'obiettivo di questo incontro è proprio quello di scambiarsi tenerezze e coccole. E questo ha un effetto veramente molto forte sul benessere della persona, sul benessere psicofisico delle persone. E bisogna anche un po', Alberto, vincersi, perché ci sono persone che proprio dal contatto fisico rifuggono. Sì, e direi che questa è proprio anche una dimensione, tra l'altro, molto maschile, cioè tutto ciò che ha a che fare col contatto emozionale corporeo e che è molto, se vuoi, espressivo e non performativo, cioè quello che sento con il mio corpo e non quello che faccio, spesso esce dalla logica normale, quotidiana e regolare di come ci comportiamo noi uomini. Effettivamente, lavorando con uomini adulti, ci rendiamo conto che nella storia di vita sono stati molto magari coccolati dalle mamme e quasi mai invece toccati dal papà. E quindi è come se ci fosse una sorta di imprinting emotivo che entra nel loro codice di funzionamento e che non li fa funzionare sull'aspetto espressivo corporeo, che è poi quello cruciale per E quindi misurando la nostra reazione nei confronti di carezze, coccole, utilizziamo, ripetiamo questo termine che vuol dire anche attenzione, accudimento, noi possiamo capire se siamo più, tra virgolette, fisici o invece più mentali? Ma in generale sì, direi che questa è un'intuizione. Io sono molto fisica. Corretta. La cosa è anche che quell'atteggiamento adulto che abbiamo nei confronti dei gesti corporei degli altri rivolti a noi racconta un po' anche che bambini siamo stati nelle braccia di una mamma e di un papà, perché usando la teoria dell'attaccamento fondamentalmente tutti noi possiamo essere un po' cresciuti come evitanti, cioè coloro che stanno lontano dall'attivazione emotiva, oppure invece come sicuri, e quindi ci piace stare dentro un abbraccio caldo. Dottor Rossi, i meccanismi alla base del benessere e delle carezze sono uguali nell'uomo e nella donna, ma lo sfioramento della pelle ha effetti più o meno forti nell'uno o nell'altro sesso? Ma allora, di solito si è sempre pensato che le donne siano più sensibili a questi sfioramenti, no? E alle carezze. C'è stato però un recente sondaggio, una recente indagine del Kinsey Institute dell'Indiana in America, che ha un po' invertito questa idea. Nel senso che mi racconti per bene. Allora, la loro indagine riguardava le coppie dai 40 ai 70 anni, quindi, come diceva Alberto prima, quindi coppie dove l'uomo non ha un'idea performante della sessualità, quindi un po' più avanti nell'età. Sì. Ma quello che hanno scoperto è che le coccole dai 40 ai 70 anni sono più importanti per l'uomo rispetto alla donna. Ragazze all'ascolto tra i 40 e i 70 anni, o che avete partner tra i 40 e i 70 anni, segnatevela. Andrei a sentire un attimo Pierfrancesco da Frosinone, poi abbiamo subito Carla da Udine. Pierfrancesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi sentite? Noi benissimo. Ah, ok. Niente, io volevo semplicemente dare la mia testimonianza. Vabbè, adesso ho 42 anni, però da bambino ho sempre sofferto della mia impossibilità nel fare le coccole, sia fisiche con eventuali carezze piuttosto che baci, e sia anche a dichiarazioni verso i miei genitori, forse per timidezza, non lo so neanche io. E oggi che sono genitore è un continuo fare coccole e chiedere ai miei figli, non so se c'è una sorta di relazione. Certo. E fa bene, cresceranno sani e forti e le coccole faranno bene anche e a lei. Tuttora soffro di questo, mio padre ora non c'è più, però non ho un contatto fisico con mia madre, che vedo che invece cerca questo contatto. E le dia una carezza, Pier Francesco, si vinca, si allarghi, come si dice, Alberto. Ma Pier Francesco racconta proprio un bel percorso che molti uomini fanno nel momento in cui diventano papà, cioè avendo intuito bene qual era un bisogno forte che avevano da bambini e non hanno trovato soddisfatto, nelle trasformazioni emotive profonde che l'esperienza della paternità porta con sé, riescono a rimettersi in gioco e in qualche modo a recuperare ciò che non hanno avuto, diventando attori di ciò che non hanno avuto. È una magnifica occasione, perché in realtà molti uomini fanno l'esatto contrario, cioè scrivono esattamente lo stesso copione che hanno subito. Francesca, buongiorno da Roma, benvenuta. Sì, buongiorno. La mia è una domanda. Dunque, in relazioni tra persone adulte, normali, sì, serene, insomma, belle relazioni, spesso mi è capitato di sentirmi richiedere proprio le coccole. Perché? Perché? Ne dava poche, c'è bisogno di... si cerca sicurezza. Lo chiediamo al dottor Rossi. Dottor Rossi, quando uno vuole il rabbocco di coccole? Perché ha bisogno di sentire una vicinanza e il calore affettivo. Cioè il senso è proprio questo, la coccola trasmette l'idea di un calore del volersi bene. L'amore è anche proprio il volersi bene, il sentire la vicinanza di una persona. La coccola è proprio il tramite per sentire che una persona è vicina a noi, e questo ci riempie, no? Perché riempie il vuoto che cerchiamo sempre di allontanare, di cui abbiamo sempre molta paura, no? Nel corso della nostra vita. Certo, paura di essere anche rifiutati. O altro che, o abbandonati. O abbandonati. Nelle relazioni. Dottor Rossi, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, noi andiamo a Udine, c'è Carla che ci aspetta, 800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io avevo chiamato appunto perché ho questi problemi avuti con mio figlio, tuttora, che è grande, che ha 40 anni, e si rifiuta se lo tocco, se gli vado vicino, se cerco di essere affettuosa, lui rifiuta queste... Che chiamano smancerie, Carla, vero? No, proprio come gli arrivi vicino... Lui scappa. Scatta, sì. Ecco. E allora probabilmente gli avrò fatto mancare qualcosa quando era piccolo... Ma Carla, noi ci interroghiamo sempre, noi mamme diciamo sempre, ma è stata colpa mia, magari è proprio fatto così. Sì, io devo dire che come papà perché quattro figli ho avuto siamo stati molto adulti che hanno coccolato tanto i loro bambini, ma il mio terzo bambino, il Pietro, fino a 3 anni non c'era modo di coccolarlo, aveva proprio una struttura sua, è fatto proprio un po' tutto a suo modo il Pietro, e in qualche modo l'abbiamo dovuto allenare, esercitare, c'è stato un cambiamento molto significativo proprio intorno ai 3 anni, e direi che Pietro ci ha insegnato che ognuno è un po' fatto a suo modo, ha proprio un suo patrimonio anche direi genetico probabilmente, e che questi sono gesti che vanno comunque costantemente coltivati per poi costruirne un'attitudine che li renda graditi e ricercati nella vita. A 40 anni è difficile cambiare il copione, però forse non è mai dire mai. Troppo tardi. 800 24 00 24, aspetto le vostre telefonate, le vostre coccole, bisogno di coccole, bisogno di sentirsi anche coccolati, amate, carezze, ma anche spunti, attenzioni, complimenti. Talvolta un complimento ci arriva e in qualche modo ci imbarazza. ragazza, ci siamo mai chiesti perché? Che è la sfida che si potrebbe lanciare agli ascoltatori. Tutti ci ricordiamo le coccole da bambini. Una delle aree di carenza spesso della nostra vita è proprio abitare un po' il territorio del piacere, quello che è lì a disposizione, perché siamo troppo coinvolti nel dover fare. E quindi provate a raccontare la vostra coccola preferita di oggi, di voi adulti, o quella che state rincorrendo. 800 24 00 24, abbiamo due libri per voi, la coccola che ci piacerà di più raccontata in onda e a quella che sceglieremo tra quanti di voi ce la invieranno sul nostro profilo Facebook. Vi dirò tra poco il titolo dei libri che abbiamo scelto per voi, uno in collaborazione con la Rizzoli.it, uno direttamente scelto da Laura Vanossi e da me, e in linea con noi abbiamo Vincenzo che ci chiama da Roma. Buongiorno Vincenzo, benvenuto. Buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda, perché spesso si sente dire che a volte si esagera con le coccole dei bambini, a volte troppe coccole possono soffocare addirittura il rapporto. Mi chiedevo se esiste un limite. Ma di che età parla lei, Vincenzo? Beh, mia figlia ha 6 anni. Io mi chiedevo in generale questa cosa, più specificatamente per quello che riguarda la mia relazione personale con mia figlia, quello che più mi incuriosisce è il fatto che spesso ci sono momenti in cui io desidero farle, diciamo, manifestarle affetto, eccetera, eccetera, e lei magari si tira indietro, e a volte avviene il contrario. Ecco, perché cerca... bisogna sincronizzare i tempi. Esatto. Vincenzo. Certo. Sì, direi che abbiamo già trovato la risposta, perché questa sarebbe stata proprio l'indicazione. In generale la coccola funziona bene quando è sintonizzata e sincronizzata, cioè quando usa due criteri che sono quello del tempo e quello della relazione. È il momento giusto e ti riconosco come la persona che in questo momento può fare verso di me gesti amorevoli e non solo gesti di cura. I bambini in realtà sono degli ottimi termometri di quanto è sufficiente, cioè una buona coccola spesso termina perché il bambino se ne sottrae e comincia a fare qualcos'altro. È un po' come andare alla pompa di benzina, si fa il pieno e poi si riparte e ci si muove in un altro territorio. In generale nei primi 2 anni di vita, soprattutto nel primo anno, i gesti proprio corporei nutrono, sono davvero nutrienti, e potremmo quasi dire che quando sono gesti amorevoli e di relazione non sono mai abbastanza. Dopo i 3 anni invece il bambino è pronto per socializzare, per entrare in un mondo che non è fatto solo di mamma e papà. Ecco, lì allora bisogna trovare il momento giusto e trovare la sintonia col bambino. E direi che Alberto, adesso anch'io mi regalo una coccola che regalo anche ai nostri ascoltatori, una coccola radiofonica, perché abbiamo in linea con noi Ambra Angiolini. Ambra, ciao! Ciao, buongiorno! Ma questo è bellissimo, io sono molto contenta. Io grazie, Ti abbiamo visto in tanti sugli schermi con I Maturi in Viaggio, un film che ha sbancato il botteghino nel weekend appena trascorso. Ma devo dire con nostra magnifica felicità, sì, perché comunque essendo un sequel ci poteva essere quell'atteggiamento un po', no, col pregiudizio che fa da padrone, invece no, insomma si sono fidati, credo anche che abbiano fatto bene, perché il film forse merita più del primo, quindi no, siamo contenti, molto. Senti, una bella soddisfazione e credo anche una bella cosa anche girare in un'isola come Paros. Beh, guarda, indimenticabile, un'esperienza anche difficile, cioè non sempre, voglio dire, serena e rilassante, anche proprio in te, cioè, umanamente ci ha messo anche a dura prova l'isola, tutti noi del cast e anche il cast tecnico, però devo dire che quando siamo andati via abbiamo pianto parecchio. E a dura prova un po' sembra anche Ambra dentro alle vicende del film, viene veramente voglia di coccolarla quando si muove un po' sperduta in mezzo a tutti questi amici che sembrano un po' trascurarla, un po' averla dimenticata. Credo che nella puntata delle coccole di oggi il personaggio che Ambra interpreta nel film è proprio il personaggio perfetto, perché è talmente brava che ti viene voglia di alzarti dalla poltrona e andare tu a darle un abbraccio, un coccolino. Ma che bello, ma guarda, mi hai fatto un regalo bellissimo, ti giuro, perché un po' l'effetto che avrebbe dovuto fare Francesca era questo, poi No, ce l'avete fatta, poi tu ce l'hai fatta benissimo. Io quando ho detto ad Alberto che saresti stata in linea era proprio felicissimo, mi ha detto è la persona giusta. Senti, io invece volevo chiederti se ci aiuti a fare un viaggio multisensoriale tra le coccole, insomma senso per senso, se tu puoi suggerirci una coccola efficace o a costo zero. Io partirei dal gusto, dato che nel film tu sei la grande chef di un ristorante, molto attento al gusto e al sapore. Una coccola per il gusto? Vabbè, io purtroppo sono una malata di dolci, proprio vivrei di torte eliminando tutto il resto, ne faccio anche moltissimi, quelli che faccio di più ai miei figli che sono obbligati a mangiarli, sono dei fantastici muffin con gocce di cioccolato fondente, noci e mandorle e altra frutta secca. Buono, di cui ci piacerebbe molto avere la ricetta, che se la scrivi io la metto sul nostro profilo Facebook. Va bene, ci conto. Va bene, cioè a parte l'ingrediente segreto, va bene. Va bene, l'ingrediente segreto non dirmelo, poi chiediamo agli ascoltatori. Senti, è un altro senso su cui tu hai lavorato molto, dato che sei stata anche una cantante di successo, le coccole... Ma per carità di Dio, no. Le coccole musicali o sonore che preferisci? Non vale giocare in casa, No, anche perché lì magari se sbagli giornata ti partono anche i nervi, per cui no. Fidanzato, compagno, marito lo lasciamo ai momenti buoni, diciamo. Ai momenti di coccole. Le coccole musicali, guarda, con i bambini esploriamo un po' tutti i generi musicali. In questo momento mi sto facendo ascoltare a forza molto Scala e Colacney Brothers, che è un'operazione interessante. Alberto sa tutto, perché vedo che... sai che hai dei punti con tutte le cose che dice. Alberto dice come se... Sì, insomma, dice delle cose normali, però Alberto, è no, vero certo, che ma Andra, io provo che è una no, musica cerco di magnifica un po'. E da grandi e bambini è un coro che davvero ha una dolcezza, una suavità, una tecnica dentro che è davvero una coccola. Senti, sì, poi non allontana troppo dalla musica leggera, perché comunque, voglio dire, porta alla ribalta cover di canzoni, insomma, che conosciamo, famosissime, e quindi può essere interessante per loro ascoltare quello che può essere il mio bagaglio, però rivisitato in una chiave più romantica, ecco. E noi lo prendiamo come spunto, perché sai che noi vogliamo sempre carpire degli spunti per continuare o provare a stare meglio. Senti, rimangono al fatto tatto e vista. Ma io sono una che tendenzialmente, più che a riceverne, fa a coccole. I bambini adorano, per esempio, farsi grattare i piedini, io ci passo proprio le serate. I grattini non passano mai di moda, credo siano forse l'unico sempre verde, l'unico tesoro che rimane, che stranamente, insomma, solo in alcune occasioni non è magari proprio la cosa opportuna, però sempre mia figlia adora proprio i piedini, la pianta dei piedi tutto il giorno, tutta la sera, finché proprio non chiude gli occhi e si addormenta. Per lei e per lui quelle sono le cose che adorano, proprio, cioè che aspettano da me. Senti, tu da bambina eri una bambina che amavi le coccole, le chiedevi? No, io ero un po' come Francesca, il personaggio del film, a dire la verità, cioè me le aspettavo senza saperle chiedere, per cui era difficile capire, e poi io pensavo che nessuno me le volesse fare, ma in realtà io non invitavo nessuno a farmele. Senti, che poi invece alla fine è meglio imparare anche a chiederle, che dici? È meglio imparare? Anche a chiederle le coccole quando non arrivano. Ma secondo me sì, perché cioè, la vita comunque ti distrae, cioè non è che tutti sono sempre concentrati a cercare di capire dell'altro di cui è la cosa della quale puoi aver bisogno, cioè è anche carino ogni tanto svegliarsi e dire chiedo questa cosa, perché di questa cosa ho bisogno. Anch'io sono della stessa tua idea, io le chiedo quando non arrivano, ne do molte. Ed è un ottimo consiglio per gli adulti, uno dei problemi più grandi che spesso abbiamo nella vita è imparare a chiedere. Grazie ad Ambra Angiolini che è stata con noi, torna presto. Grazie a voi. Ambra, grazie. Un abbraccio grande. Grazie, un abbraccio. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Voglio dirvi i titoli del libro. Allora, la prima coccola che arriverà in onda, 800 24 00 24, quella che ci farà più sognare, ci attiverà una parte del cervello, perché tra poco parleremo anche di quale parte del cervello attivano le coccole. Le più belle coccole a fiabe, in collaborazione con la libreria Rizzoli.it, mentre per la coccola che ci arriverà sul nostro profilo Facebook, che scegliamo? Reinventare la famiglia, una guida teorico-pratica per il professionista dell'educazione di Laura Formenti. Siamo tornati e in linea con noi abbiamo Antonia da Matera, Paola da Milano e Lorenzo da Trento. Facciamo una carrellata di ascoltatori, forse di coccole. Antonia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho 55 anni, ho tre figli, la più piccolina 24, anzi quasi 25, 29, 33, sposato con una bimba. Sì, insomma, sono donne fatte, uomini, ecco. Sì, però il problema rimane sempre le coccole, vogliono mia nuora, il fidanzato di mia figlia, la ragazza della, mi rimproverano. Per averli picchiati troppo, vogliono sempre coccole, sempre massaggini, i grattini a cui faceva riferimento Ambra, ecco. E vabbè, io stessa se ho un mal di testa e qualcuno è così disponibile da farmi un massaggino in famiglia, funziona molto più di un'aspirina, di qualcosa per il mal, mi rilassa. Quindi molto. Antonia, io la iscrivo a partecipare a questa nostra sorta di sfida, perché Antonia ci ha lanciato questa idea, il grattino, il massaggino contro il mal di testa, quindi questa è la coccola che lei preferisce. Voglio segnare il suo nome, perché abbiamo in collaborazione con la libreria Rizzoli.it la possibilità di farle ricevere a casa le più belle coccole a fiabe, e sentiamo anche che coccole ci propongono gli altri ascoltatori. Antonia, continui a fare le coccole, se passo da Matera la chiamo, così ne fa un po' anche a me. Paola da Milano, buongiorno. Buongiorno. Salve, io ho 29 anni. Il discorso è vario, nel senso, io non sono coccolona, no. O almeno il mio compagno mi sta educando ad esserlo. Perché? Cos'è che le dà fastidio della coccola? No, niente, è un ragionamento un po' strano forse. Quando ero piccolina mia madre mi diceva sempre: io vi riempio di coccole perché non ne ho avute da mia madre. Sì. E lei dice: io ne ho avute troppe, per cui sono abbastanza satura. Esatto, però adesso ho un compagno che è molto coccolone, sì. Me le chiede anche, e mi piace, mi sta abituando, è una di quelle che preferisco, è il bacio in fronte. Il bacio in fronte, Paola, lo segno, bacio in fronte, perché poi sarà Alberto Pellai a sceglierle. Grazie Paola. Grazie a voi, arrivederci. Baci, carezze, complimenti, parole, musiche. Però interessante quello che ci ha detto Paola, perché ha parlato di coccole della mamma, perché la mamma aveva bisogno di riempirle di coccole. Ecco, quello è un aspetto di non sintonizzazione che un po' potrebbe spiegare il fatto che lei è diventata grande e un po' rifuggita dal mondo del contatto fisico. Cioè, la coccola fondamentalmente è sintonizzata sul bisogno di chi la riceve, non sul bisogno di chi la dà. Quindi non dobbiamo dire: ti do le coccole, tante coccole, perché io ne ho avute poche. Guarda, è un gesto proprio di simmetria perfetta. Tu, nel momento in cui sei pronto, ti accorgi esattamente se l'altra persona è pronta. Altrimenti diventa un gesto che intrude, che invade, esatto. E a proposito di coccole, a volte le coccole si possono fare con un click. E io vi suggerisco un click per fare una coccola a Davide Paolini, che è in linea con noi e che ci spiegherà tutto. Davide? Buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Bene, il click potrebbe essere fatto su un sondaggio che è in corso, che è www.italiaatavola.net, dove cliccare sul mio nome tra gli opinion leader come personaggio del mondo gastronomico. Quindi è un click, è una coccola ben fatta sicuramente, perché mi ama, mi segue. Va bene, e noi ti seguiremo. Davide, allora ridiamo il sito www.italiatavola.net per fare una coccola a Davide Paolini, se ne merita tante. Grazie a Davide, buona giornata. A presto, grazie a voi, arrivederci. Lorenzo, buongiorno da Trento. Buongiorno. Tutto bene? Io bene, e lei? Bentornata, vedo che la voce le è tornata. Grazie Lorenzo, ha visto. Ecco, non è proprio perfetta, ma insomma. Va bene. No, io ho un'esperienza molto bella da dire, che ho un paio di anni fa ho fatto un bel corso di biodanza. Sì. e mi ha molto aiutato in un momento un po' particolare, e di sono un po' più di solitudine, così, quindi mi sono un po' più ritrovato, diciamo, con altre persone che avevano altri problemi nella loro vita. E è stato un bellissimo confronto che abbiamo avuto, e devo dire questo è stato molto bello, perché c'è uno scambio proprio di affettività, di rispetto reciproco, e quindi io la consiglio veramente. Senta, come funziona questa biodanza? La biodanza è il sistema Rolando Toro, che in pratica si lavora sull'affettività, sugli abbracci, sulle carezze, sul ballo, su tante cose. Devo dire questo, insomma, è stata una bella esperienza, veramente. Grazie Lorenzo, buona giornata. E le coccole e le carezze non prevengono però solo dall'esterno. Concedersi piccole gratificazioni, ad esempio un bagno caldo e profumato, può essere, Alberto, una bella coccola. Che dici? Altro che. Magari il complimento, un sorriso. Però ci sono anche le note, ci sono delle note, non solo le note profumate, ma le note musicali che possono trasformarsi in coccole, attivare parti del nostro cervello. Che in linea con noi abbiamo la dottoressa Luisa Lopez. Dottoressa, buongiorno e bentornata. Buongiorno, ben trovata. Responsabile medico dell'ambulatorio di neuropsichiatria del villaggio Eugenio Litta di Grottaferrata e consulente scientifica della Fondazione Mariani per il progetto Neuroscienze e Musica. Dottoressa, noi ascoltiamo un brano musicale che ci piace in modo particolare, anzi proprio lo scegliamo tante volte per farci una coccola, per stare bene, per rilassarci, per ritrovare l'energia, per tirarci su. Segno che le note arrivano al cervello e attivano dei centri che sono molto simili a quelli che si attivano quando facciamo delle cose gradevoli, piacevoli. Sì, ci sono molte ricerche che mostrano l'attivazione dei sensi del piacere, ma una in particolare, che è quella di Zatorre, che è uno dei pionieri in questo campo, ma è una ricerca su Nature Neuroscience del 2011, in cui si dice che non solo quando proviamo piacere, quindi vediamo che la musica nel picco del piacere ci fa rilasciare la dopamina, che è uno dei nostri neurotrasmettitori che possono fare tante cose, diciamo, però ecco, non solo nel picco del piacere, ma anche per l'anticipazione del piacere che proveremo, addirittura in aree distinte, per cui è molto interessante che la musica agisca proprio da tutti i punti di vista, no? Sia nell'attivare quello che sarà la memoria di quello che abbiamo e l'anticipazione di quello che proveremo dal punto di vista appunto della coccola, se la vogliamo chiamare così oggi, no? Dal senso estetico. In Italia non ci sono molte ricerche sulla parte estetica della musica, però una ricercatrice italiana che si è trasferita in Finlandia lavora molto su questo aspetto, si chiama Elvira Brattico, quindi diciamo che siamo ancora presenti anche come ricercatori italiani dappertutto in questo ambito. E questa è sempre una bella soddisfazione. Dottoressa Lopez, grazie per essere stata con noi, la saluto e la ringrazio. Grazie a voi tutti, buongiorno. Forse abbiamo tempo per fare un saltino, sì, velocissimo a Torino, ci aspetta Marisa. Buongiorno Marisa, benvenuta. Buongiorno. Marisa, buongiorno a lei. Mi racconti rapidamente perché siamo in chiusura. Sì, rapidamente, è un ricordo ancora abbastanza preciso di una coccola che mi faceva mia madre nell'età adolescenziale, che è l'età in cui non ne vuoi più, no, dai genitori. Allora lei cosa faceva? Mi accennava sulla testa mentre studiavo una carezza, ed è una cosa che a distanza di tanto tempo io me la ricordo con uno struggimento. La porta ancora nel cuore. E sì, nel cuore, e però si non sente. Riesco a chiederla a nessuno perché è troppo privato, mi sembrerebbe. Non grazie perché... Marisa, per averla condivisa con noi. Alberto, sì. Se tu sei d'accordo, certo. A Marisa, che ti ha fatto entrare in una parte così importante e intima della sua vita, del suo rapporto con la mamma, farei ricevere a casa le più belle coccole fiabe della libreria Rizzoli.it. Invece sul nostro profilo Facebook voi continuate a scrivere, perché reinventare la famiglia arriverà ad uno di voi. Vi devo salutare con calma, perché Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica ed è qui, Laura Vanossi preziosa in redazione, saluto e ringrazio Alberto Pellai, voi che come sempre ci avete seguito e animato la nostra trasmissione, e io vi aspetto domani, se volete alle 11 sono qua, ora devo andare. Radio 24, la passione si sente.